Siamo tu, alla grande. Sai che mi stai arrivando a Santiago Lopez, tu? Santiago Lopez mi stai arrivando, Ah, va bene. Va bene, sì, altro che se va bene. Alla grande, già lo credo che va bene. Vabbè, Antonio Claude, purtroppo non lo sento. Vabbè, quando si metterà l'antenna, allora lo sentirò. Avanti Marco, fai girare tu pure. Non hai sentito cosa ha detto? Lo sento Antonio Grotte. Avanti a tu. Eccolo, già vi sto ascoltando a tu. Buonasera, ben sentito. Buonasera, ben sentito anche da parte mia. Cappa, ha detto Giulio che da quando è stato dentro gli hanno sequestrato tutto. Adesso già ci credo. A tu avevi iniziato una cosa che non abbiamo mai portato a termine. Un po', vabbè, adesso non voglio rivagare i tempi passati, però quello che stavi progettando, cioè quello di far conoscere un po' la radio, un po' a Sassari, per chi ancora non la conosce e non è riuscita, è stato un peccato. Io quella storia, guarda, non mi è rimasta così. Non mi è piaciuto assolutamente che si sia interrotto senza arrivare a conclusione. Comunque, non so se mi stai ascoltando anche tu. Pazienza, i tempi erano quelli che erano, è andata così. Avanti Marco. Aspetta, scusa Marco. No, negativo, fammi da ponte Marco poi con Giulio. Digli che comunque quella cosa esiste a tutt'oggi, perché è stata registrata e quindi di conseguenza è tuttora esistente. Allora, quella cosa esiste a tutt'oggi, credo fosse l'associazione, no? Sulla carta esiste tuttora, quindi si potrebbe attivare in qualsiasi momento, basta trovare dei membri che vogliono partecipare. Una volta ne abbiamo parlato anche con Gianni, Anto, se ti ricordi, no? Che mi ricordo che Antonio diceva che ci voleva un coordinatore, comunque qualcuno che decida, no? Su cosa l'associazione deve fare o no, no? Il tipo di servizi. Invece Gianni era dell'opinione che bisognava fare tutto di comune accordo. Solo che se ognuno vuol fare quello che vuole, alla fine non si arriva a nulla. Se un capo ci vuole, mi lo già, riprendi. Te lo ricordi il discorso? Tanto tempo fa, sì, me lo ricordo. E vabbè. Ma certo, cioè, era più, diciamo, democratico farlo così, come dicevo io. Uno propone, gli altri magari dicono la loro, capito? Se sono d'accordo o meno, quello volevo dire io, forse voi avete frainteso. A me non c'è un problema, andiamo a c'è cosa. C'è anche su Facebook se la cercate. Qui chiudo, mi hanno chiamato per la cena. No, ma è quello, comunque io non ho mai capito esattamente per quale motivo si sia interrotto il discorso, tutto lì. Comunque pazienza, è andata così, sarà per un'altra volta. Comunque non sarebbe male se ci dovessimo ripensare e cercare di portare avanti qual era il discorso interrotto tempo fa. Vabbè, dai. Saluto tutti, ciao Antonio Grode, ciao Antonio Bombolo, ciao Gianni, ciao Marco, ascolto il finalino e dopo chiudo. Vai Marco. Cappa, ciao Giulio, dai, ci sentiamo le prossime, quando capita, perché anch'io sono molto incostante nell'entrare in radio, perché c'è un netto calo della passione, dai, delle passioni, non solo la radio, ok? Vai Gianni per i saluti. E allora, ciao Giulio, buona carica quando la fai, ci sentiamo domani, grazie per il questione. Avanti Antonio. Ciao dottore Giulio, ce la risentiamo le prossimine. Stavo sentendo qua il tanto bello, lo stavo sentendo da giù. Ok, ciao, ce la risentiamo. Antonio Grodi, avanti, anche se non ti senti ti faccio la ponta. Cappa, ben sentito Giulio, alle prossime, dai, buona carica quando la farai, anche se non mi senti qualcuno mi farà la ponte. Riprendi tra Marco, intanto sono qua che sto ascoltando, dai. E Cappa ti ha detto buona carica quando la fai e ti saluta, ok? Vabbè Anto, anche oggi stavi, sì oggi è venerdì, oggi stavi lavorando, vabbè freddo ce n'era, no, forse meno di ieri credo, però era più ventoso. Già non credo che era freddo, già non credo che c'era, ma piazza che tiene in varia, però credo che c'era, però io non lo sentivo perché ero sempre in movimento. E vabbè, poi tu sei nel mezzo lì, nel motocarro, poi fai una cosa di fatica, quindi bene o male ti riscaldi, capito? Non è come stare a una scrivania, fermo, eccetera. Riprendi Gianni. Non ce l'abbiamo più il motocarro. Carro adesso. KK, peraltro. L'autocarro è, non il motocarro. Ehi, vabbè, quello che è autocarro addirittura. Ehi, vabbè, autocarro sarebbe lo strada, quello bianco, quello Fiat. È matricolato autocarro. Non lo sapevi? No, no, io sono rimasto all'Ape. All'Ape. Di una volta. Ma è più grande il cassone pure. No, è più piccolo ma è più comodo. E da cazzo una carretta. Cazzo devi fare la puntana di Rocoibo, cioè, allo trainito. Se ti fanno un trainito e poi devi salire la sassa e ti voglio vedere che già si può andare lo stesso. Solo che cazzo, attenandi. Vabbè. Ho sentito questa storia che la bombola non te la puoi portare in macchina, se uno si volesse prendere la bombola di suo, con la propria macchina non si può fare, ma vera sta la cosa, e balla. A cazzo l'ha detto? Non lo so, l'ho sentito da qualche parte, perché sono materiali pericolosi, boh, in caso di incidente si piglia fuoco la macchina, scoppia pure la bombola, una cosa del genere. E beh, le macchine a gas allora, non so. Un capo si faccia! Un capo si faccia cosa scoppia? Ah, non è vero. E se te la trovo, tanto so, cazzo, la bombola, non la puoi caricare. Ci sono, se voi avete dei particolari permessi per fare il trasporto delle bombole, ci vuole quello. Non puoi trasportare in una macchina normale, che la bombola è andata alla base all'asta. Ma chi l'ha detto? Ma chi gli ha detto queste cazzate? Ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Devi fare così, la legge sono fatte a cazzo, sono fatte. Tu devi farti il corso e tutte le cose, però se ne trovano uno, come si dice, se invece trovano uno con la bomba, con lo scatino di macchina non gli fanno niente, assolutamente, chi l'ha detto? Boh, io ho sentito così, forse al baracchino l'avevo sentito, il privato in teoria non potrebbe portarsi la bombola a casa per motivi di sicurezza soliti, ma vabbè, io me la faccio portare a casa, io sono mandrone, ti pare che faccio la fatica di trasportarmi per 9 gradini la bombola dentro casa? Ma stiamo scherzando? Una bella passata ne è voluta a travagliare, vedi chi? Ti ha passata la mandrolina. All'inizio bomba. No, no, il lavoro, poi il lavoro fa male. Lavorare, capito? Sapevo che mandroni. Cazzo, grode. Dite. Inteso lei a Marco. Ha ragione anche lui. Se lo vedi, evidentemente se lo può permettere. Chiappa. Ma che ha detto, cioè. Vabbè, tu poi me la fate portare, io. Cioè, ognuno fa come vuole, non è che. Ma poi la bomba uno viene e se la prende, cioè non è che. Cioè, se le vendiamo da terra c'è una logica o no? Cioè, se no non ne avremmo venduta, avevamo fatto tutte le consegne a casa. Beh, ma infatti, Antò, ce ne fossero come lui, lavoreresti di più, no? Beh, certo. Capo, ma lo sai che noi la percentuale più alta in via Milano vendiamo tutte bombole da terra, quasi. Cioè, bombole alle case, sì, già ce n'è, ma la percentuale più alta è tutta. Anzi, a noi ci fa piacere, mi guadagniamo di più. Antò, ma l'altro negozio non ce l'avete più? La Diazza non c'è più. Solo in via Milano adesso? Solo via Milano, ma già da diversi anni. Poi c'è anche il capannone, cosa c'avete? Magazzino grosso? A Rosa, ci sono i box, ci sono dentro, mettiamo le bombole dentro, Rogoso è piccolo, è un container. Io pensavo che fosse tipo capannone, dove mettevate tutte le bombole, KK. ma lo sai cos'è? Che i materiali infiammabili non è che si possano trasportare, ci vuole la licenza per trasportare materiale infiammabile. Poi se uno lo fa così sotto banco è un'altra cosa, ma a trasportarli non si possono trasportare, informati dai vigili. Ma che l'ha detto? Ha una bombola per trasportare, chi l'ha detto? Ma non la licenza, diciamo. Poi le licenze non ci vogliono più, me. Deve fare, non so, una iscrizione alla Camera di Commercio, alle fabbriche come dite voi. Ma sa le nuove regole. La barba di quelli cazzo che si hanno impegnato la licenza, per fare chissà cosa, tutto giusto. Cazzo, in barba di quelli lì, va tu, vai a un locale. Le fai la cosa che vende fatti di mezzi in via Cogio, in via Marghinotti, non la ribombole. Fa un permesso, fa una cosa del commercio, devi riscriverti tutto a posto. In barba a quelli che ci hanno fatto il culo negli anni per prendersi le licenze, hanno pagato un bel di denaro. Scusatemi, dai, vi saluto, che devo andare a scaricare le batterie. Ok, Antonio, ci sentiamo. Ciao Antonio, alle prossime, ci sentiamo, ciao. Vai Gianni. Vado, vi saluto, vado a portare giù il cane, dai, sono già arrivato, non mi ricordo che era così tardi. Vabbè, dai, ciao Antonio, ciao anche a Marco, ci sentiamo, buona serata. Anzi, adesso cerco questa fare delle bombe, la vedo se è vero quello che dice Antonio. E allora, così, cazzo, basta che abbia un locale di vita, fai la richiesta dal vigile del fuoco, che cosa, e tu pigli e vendi le bombole. Licenza, non c'è più la licenza. Ma chi su ve, vi vedano i cani porci, vedane. Papa Gianni, ciao, sentiamo, alle prossime, dai. No, forse lui alludeva a questa storia del trasporto, se il privato può trasportare o no la bombola nel cofano o dove se la vuole mettere, boh. Guardate che non superi, se mi pare, allora, per cosa, non superi quella, se poi c'è una bombola della B, della Carricaggi, non succede niente, assolutamente no. Ci sono regole un po' strane, mi, su queste cose qua. No, ma certo, non succede niente se non ci sono controlli, metti che ci sia un normale controllo, sai, posto di controllo, documenti, può aprire il cofano e c'è la bombola lì, e magari fanno qualche... Tanto mi qua se possono raggranellare i soldi lo fanno, Antonio. Qua sanzionano, tutto è sanzionabile, con un eccesso di zelo fuori dal comune anche, un po' fuori dal comune. Poi visto adesso i vigili urbani quando fanno le multe non fischiano nemmeno più, non fischiano nemmeno se vedono una macchina in divieto, direttamente libricino segnato, fatta la multa. Secondo me gli danno una percentuale. E c'era un periodo che loro percepivano un qualcosa in più in base alle multe fatte, poi però era stata sospesa, che io ricordi questa pratica, ma penso che l'abbiano reintrodotta, perché altrimenti, ma, mi sembrano un po' troppo solerti. Poi adesso che si chiamano polizia locale sono diventati, oltre che solerti, anche abbastanza, come dire, abbastanza stravaganti, ma abbastanza prepotenti. Cappa! Oh, ehi! Anche se no a Natale non fanno i stipendi, non fanno. Cosa? Oh, ehi, raga, pensi che è meglio. Fai molto a fare dei negozi, se no a Natale non fanno i stipendi. Qua dice che le bombe di gas si possono trasportare solo su mezzi autorizzati, officine meccaniche che portano i bomboloni del gas e dell'ossigeno, queste cose qua, però nelle macchine private non si possono trasportare. Ma chi l'ha detto? Ma smettiamola. Infatti c'è anche scritto ossigeno, non gas, GPL in bombole. Qual era la legge, Gianni? La puoi citare? E adesso l'ho spento al tutto, Marco, l'ho spento il telefono. Dai, ci sentiamo. Comunque basta che tu cerchi di fare questa domanda, si possono trasportare bombole di gas in veicoli privati, e ti dà la risposta. La risposta è sì. Punto, la risposta è sì. È proprio così come sta dicendo Gianfranco. sì, Gianfra, perché avevo sentito una diatriba, non mi ricordo se al Baracchino o in un altro gruppo di persone, e qualcuno citava qualche regolamento, non so se comunale, non so se se riguarda il codice della strada, se riguardasse qualche legge. Tu mi hai detto che si può portare, cioè un privato può trasportare la bombola, giusto? È certo che sì, l'ho portata anche stamane. L'importante è che sia messa bene e che sia una sola, ovviamente, non più di una. E questo è secondo le norme ADR che come sa benissimo Antonio, sono quelle che normano il trasporto di merci pericolose, gassose, eccetera, eccetera. Giusto, Anto? Cappa. Ti sto dicendo di sì perché il libricino l'ho visto com'è. L'hanno fatto fare pure a me il corso dell'ADR. Quelle sono le norme. Non devi superare, mi pare... 8 kg, non deve superare, però si può trasportare, come? Un'altra cosa, tenete presente che se fosse come dite voi, praticamente non potrebbe circolare nessun camper, perché tutti i camper dentro hanno il cucinotto non relativo a bombola. Quindi la norma che autorizza cita esattamente che non è consigliato per ovvi motivi, per il percorso, eccetera, eccetera, perché comunque è una cosa pericolosa. Però non è vietato, ecco, tutto lì. Eia, buono sapersi, dai, avevo questo tarlo. Infatti ho detto poco fa, ma e allora le macchine a gas perché possono circolare? Sono delle bombe ambulanti in un certo senso. E sai, se comunque il cherosene, quindi se si può portare alla bombola anche il cherosene in fusti, tipo quello da testoni, non c'è problema alcuno, no? Le macchine a gas hanno le valvole di sicurezza. Ma se è avvolta dalle fiamme la macchina, altre valvole di sicurezza, lì va in sovrappressione e salta tutto. No, non è così, deve raggiungere una certa temperatura entro la valvola, non è come stai dicendo tu, no. Ma quante informazioni sbagliate che date, io? Ma vi volete informare bene? Ma ce l'hai avuta la macchina a gas, Marco? No, io no. Allora guarda, per certi versi è molto più sicura di quella a benzina, perché una volta che si aprono le valvole viene incanalato il gas, vanno determinate situazioni e c'è lo sfiato, quindi è anche facile da spegnere. Quelle che esplodevano erano quelle di una volta, non c'erano le valvole. Quindi non c'entra che sia avvolto dalle fiamme il contenitore, no? Che possa accedere proprio per se si arroventa, no? Sovrappressione, no? Tutto collaudato, sono tutto a norma. Quindi è più pericolosa quella benzina, perché la benzina non solo può esplodere, ma si mette anche a camminare, cioè si avvolge, capito? Quindi c'è quel problema lì. E non solo, ma quelle bombole hanno una resistenza pazzesca, perché anche se ti sbatti a determinata velocità ti fai fuori tutto, ma la bombola non si fa niente, capite? È tutto testato. Poi Antonio lo sa benissimo, se ha fatto il corso ADR. Certo che lo so, sì, se per quello ci sono anche le bombe in retroresina, nessuno lo sa, le Baofeng. Le Baofeng. Eia, retroresina, Baofeng, ma hai sentito la bombola Baofeng? No, io di Baofeng avevo sentito di queste radio bibanda cinesi, ma di bombole in resina di gas no. Sì, ci sono bombole retroresina, sono. Vabbè, magari ci pronunciano un diverso coso. Però è così. Cioè, se vuoi ti mando anche il video, ti mando. La bombola in retroresina. Ecco se non resiste. Sì, vabbè, io non so i materiali appunto che resistenza abbiano. Comunque, buono sapersi, è tutta cultura. E allora perché, ma certe volte sento, ma i vigili del fuoco, vabbè, fanno sempre allontanare tutti quando c'è una macchina che brucia, che magari c'è il gas, la bombola di gas, non parlo di telefilm, diciamo, tra l'altro di tutti che potrebbe saltare, ma hanno detto menate vigile il fuoco quella volta, boh. Quello te lo dicono a prescindere, per non ostacolare le operazioni, perché c'è gente che ci metterebbe il naso dentro quando c'è il fuoco. Allora basta dire, allontanatevi e non ostacolate le operazioni. E secondo te l'hanno detto? Eh beh, dovrebbero. Io l'ho retta, non è che mi butto nel fuoco, nelle fiamme. Comunque, non so se l'avete ricevuto, ma Trump ha invitato tutti alla Casa Bianca e non so tra qualche capodanno quante feste fa, e rigorosamente senza mascherina. Ah, io intanto fai biglietti, tutti alla Casa Bianca a Capodanno e a Natale. Poi se ci offre un giro della moglie, un tanto di guadagnato. Scappa, qui te lo mandatemi, te lo, no, qua in Sardegna forse non, cioè forse ci danno a Porto Torre ci le tengono, perché vanno bene per l'imbarcazione, perché non si arrugginiscono, perché la bomba d'acciaio lo sai che si arrugginisce, allora, acciaio mica da ferro, si arrugginisce con la salsedine, per le imbarcazioni le danno molto, questa Baufeng. Beifin, infatti. No, Beifin, una cosa del genere. Praticamente. Vorrei vederlo scritto. La bombola in acciaio, ma sono bombole. Beifin, sì, sì, sì, tanto scritto Beifin con la Y, la prima I. Beifin, non Baofeng, E. Poi magari fa da multinazionale la Baofeng, produrrà anche altra roba, tipo l'Acme americana. Baofeng, non tenne niente di bombole, io penso che il recipiente tenga, sono sicurissime. E beh, se le avranno fatte, avranno passato collaudi sanguinosi per essere commercializzate. Beifin, non l'avevo mai vista, no? Non avevo mai sentito parlare. Bene, quindi Gianni ha chiuso, è andato a portare il cane, Claudio ha chiuso, chi altro ci è rimasto? Giulio ha chiuso, pochi siamo rimasti. Bene, nella mia esperienza l'ho anche presa in mano quella bombola, è leggerissima, perché me l'ha portato in deposito un tedesco, non vi comprendiamo un cazzo, anche sono pronti, poi ho cercato di, col traduttore, col coso ho cercato di capire cosa voleva, ho cercato di farle capire che quella noi non ce l'avevamo, però ci avevamo la bombola normale, cose che poteva andare bene, cioè ho cercato di parlare con lui, a chi non comprendeva nulla, avevo pazienza, quando vengono i turisti a Sassari, di solito ci vado sempre io, perché così chi non li comprende nulla, non hanno pazienza, perché devi farti anche capire piano piano, capito? Sì, sì, ecco, soprattutto per i camperisti, dicemi, per questione di peso. Interessante. Ma hai messo fuoco a una bombola? No, ancora no, ancora no. Però ricordo che dei conoscenti, testimoni di Geova, no scusa, non testimoni di Geova, mormoni che abitavano qui a tipo via Gorizia, si è fatto portare la bombola il tipo, no? È andato a montarla lui, probabilmente ha messo male la guarnizione e la bombola è saltata. C'erano le foto tanti anni fa sulla nuova, proprio aperta e squarciata la bombola. E credo che abbia sfasciato e sceso tutto al piano di sotto anche là. Ha bucato il pavimento. Boh, dimmi Gianfra, dimmi. No, io personalmente ancora non ne ho messo fuoco a bombole. Allora, quando ho fatto il corso, praticamente il vigile del fuoco ha aperto la bombola, una normale bombola di gas, l'ha accesa, è uscita una bella fiamma un metro e mezzo. Dopodiché non devi fare altro che prendere dei guanti, ti devi avvicinare da dove sputa la fiamma, cioè da dietro, e chiudere il rubinetto. Fatta! Non succede niente. No, avevo visto un video russo o cinese, no, ma penso sia russo dalla lingua, dove si vede una camionetta di bombole in fiamme e ogni tanto ne salta una. Bel effetto pirotecnico. Beh, chiedi Antonio se lo può fare, ce lo fa vedere. Se me lo facciamo, facciamo il corso. Io ne accendo uno e qualcuno deve andare a spegnerla. No, dicevamo il coso pirotecnico, lo spettacolo. Tu metti fuoco al furgone lì, come si chiama? Al motocarro, tiro di bombole e facciamo anche il video, lo metteremo su YouTube, su TikTok. Io l'accendo io, però l'accendo. E tu poi guidi. Ma da dentro il video non viene bene, se mi metto dentro io non viene bene il video. Via, vabbè. Gaffa. Vabbè, lo so come, poi molte volte fanno un mega fuoco e poi te lo devi spegnere. Fanno anche quello, fanno. Ma sai chi le fa quegli corsi lì? Li fa coso? Scliroso. Quello che c'è in via Fermi, di solito, quei corsi lì li facevano loro molto. Oltre che li facevano loro per i vigili del fuoco, quello che vende i tintori. Non via Fermi, no. In via Canali ci sono adesso, prima erano in via Fermi. Quelli che vendono i tintori. No, io l'ho fatta con i vigili del fuoco. Capa, ma di solito c'erano sempre loro in mezzo, facendo questi corsi. No. Infatti dai vigili del fuoco proprio. Interrogazione dalla comandante, ufficio comandante. Ah, capa, è perché un periodo li stavano facendo loro, gliel'ho portati io. Poi un periodo li stavano facendo solo i vigili del fuoco, li stavano facendo solo loro quei corsi lì. Perché erano appaltati, dai. Qualche dura gliel'ho portata per fare quei corsi. Infatti, da qualche parte dovrei avere anche il certificato che rilasciano. So che non me lo ricordo più dopo. E niente. Sì, c'hanno la cosa, come si chiama, quella grande, una specie di mini piscina, credo che sia metallica, e dentro c'è del carburante, le danno fuoco e c'è una bella fiammata. E devi la devi spegnere praticamente con l'estintore. E c'è tutta una tecnica, devi iniziare dal basso, non dall'alto come fanno Ciro. Devi usare la schiuma o comunque lo devi soffocare in qualche modo. Dipende secondo cos'è, mi pare di vedere la CO2, non me lo ricordo tanto bene adesso. E quell'estintore, una polvere particolare. Sì, tutta... devi togliere l'ossigeno in pratica, no? Perché senza ossigeno la fiamma si estingue. Sì, già ce l'abbiamo anche noi, già. Ogni 6 mesi con l'auto. E di là. Io ce l'ho sempre in macchina, anche se piccolino, per quello che può fare, ma è sempre in via quello. Ho usato una volta per una signora che le stava dando a fuoco il motore, una Panda. E capo, l'hai portato a ricaricare? No, non conviene più ricaricarli, guarda, ne ho uno nuovo che è scarico, tipo dei piccolini è da auto, e per caricarlo non so quanto ti prendono, vai da Brico e te lo compri nuovo con tanto di manometro. È strano, perché di solito ti prendono 15 euro così, non me lo ricordo, è una cosa del genere era. L'ho pagato 15 euro, credo, l'estintore nuovo col manometro suo, omologato, quindi cosa lo faccio ricaricare a fare? No, noi siamo obbligati, ogni 6 mesi dobbiamo passare la revisione, se no lo cazzi a mare, se passa il controllo. Sì, quelli sono quelli grandi, quelli dei locali, ci mettono poi il buchetto con la data. Marco, allora, che si fa? Io nel frattempo, non sapendo cosa fare, mi sono ordinato quel piccolo ricevitore tascabile, quello tipo Texun o quello che mi hai nominato tu l'altra volta. E non trovavo le differenze col Texun, invece era talmente evidente che cavava gli occhi al cieco, che è a scala graduata, come si chiama? Scala parlante, no? Con la... già capito, non ha l'indicatore digitale come il Texun, non mi viene mai il nome però di quella marca. ho preso questo marca, vabbè, XH Data, alias Radi Wow, tutta roba cinese, piccolo, più piccolo alle 660, ovviamente con la banda laterale in HF, che è l'unica cosa che mi interessa. Ti danno il solito cavettino pieghevole per, con la mollettina per fare l'antenna, quindi ha l'antenna esterna, l'attacco per l'antenna esterna, ci puoi mettere qualsiasi antenna, magari anche risonante, e va anche meglio. Una cifra risicata è per essere preso in Italia. Tu conta che il Texun 660 mi sarebbe costato circa 140 euro spedito dall'Italia, con garanzia italiana. Questo 63 euro mi pare, 64 euro, ecco, spedito. Beh, è fatto bene, se è come il Degent che ci ho qua davanti, sicuramente ti dà grandi soddisfazioni. Non a casa, ovviamente, perché a casa si becca tutte le maledizioni possibili e immaginabili, soprattutto in condominio, perché i flessi disturbi, ma se tu lo porti fuori e togli l'antenna telescopica, va alla grande, anzi, ti meraviglia, perlomeno il mio, rimane meravigliato dalla ricezione. Sì, allora Roberto mi ha indicato un modello simile, chiamato Radi Wow, che praticamente è identico, pressoché identico, diciamo, dai, cambia la batteria, che la sua è quadrata tipo cellulare, questa è a siluretto tipo, sembra una, non una mini stilo, una maxi stilo, dai, dal litio. La sigla è 18650 della batteria, la fa anche la Samsung. E aspetta, dove volevo arrivare? Porca miseria, ho perso il filo. Sì, il suo, praticamente il suo riceveva solo in AM, però riceveva AM, poi banda aerea, vabbè, LFM commerciale, questo in più ha la SSB, però per il resto ha le stesse funzioni, stesse attacco cuffia, attacco antenna esterna, alimentazione esterna, alias ricarica batterie, è carino, e ti dirò che è molto più compatto. Guarda, se lo vuoi vedere su Amazon, si chiama XH Data, questo tutto attaccato, XH Data 808, c'è una sigletta e mezzo che non ricordo, comunque XH Data 808, per quello che lo uso io è più sufficiente, anche perché come tu ben sai io non volevo assolutamente dipendere dal computer per ricevere le HF, giusto il cellulare tollerato mi, però l'antenna remota a me piace ricevere con un'antenna mia, che in caso di uso veicolare è quella che ti dicevo, Proxel, con quelle prese calcolate, non so se si chiamino così, no? Cioè con lo spinotto lì, lo attacchi lì, ti fai 40, poi 20, 15, 10, forse anche 12, non mi ricordo. Ripetimi la sigla. Dell'antenna dell'apparato, allora X, quindi X-Ray, Hotel, Data, e poi ricordo 808. Ah, ho capito, non ho mai sentito, vediamo se c'è 808. Guarda, su YouTube un radioamatore italiano ha fatto la recensione da poco. Se riuscissi a ricordare il modello, aspetta, XH, sì, allora XH Data, poi non so come si pronunci, D808, e se su Amazon lo stanno dando in offerta, costava 79,90, lo stanno dando tipo 63,90, una cosa del genere. Allora sai che si chiama Belfing, non Baufeng, mi sono sbagliato, Baufeng è il coso. Sono riuscito a metterlo a posto, lo sai? Che cosa? Il portatile? Sì, adesso funziona. E quindi il canale PMR è messo. Come l'avete messo? FM larga o stretta? Probabilmente larga, no, senza dubbio larga. Non lo so, bisogna chiedere a chi me l'ha fatto, non lo so. Sì, l'ho fatto. È molto bello, molto carino, e poi c'è anche la M aeronautica. Quindi sicuramente ti darà grande soddisfazione. Ehi, vabbè, non più del Texun, comunque riceva bene, con l'antenna tarata riceva bene in macchina almeno, certo in casa dovrò adottare qualcosa. Avrei voluto qualcosa sul tetto di dedicato, ma mamma mia, se non ce la fa con la 5 ottavi, mia, quello che prende, prende poi. Quello che arriva, arriva. Ti metti due duplexer e praticamente con l'unico cavo porti su, ti metti uno stilo, VHF, VHF, un V-band, e da giù poi fa la derivazione, no? Perdi un pochino, però tutto sommato funzionano bene. Eia, allora su Amazon questo ha questa marca, però caso strano è venduto dalla radiowow.it, è la stessa marca con cui è marcato quello di Roberto, che però, ripeto, solo AM, non ha la SSB. Dice che è una splendida ricezione quella cosa lì, però io dicevo, se non ha l'SSB è inutile, invece poi per puro caso ho trovato il modello con l'SSB. Se guardi le foto vedi anche quella batteria, quella a litio stilo, la 18650, e deve essere il modello col pirulino, di solito è piatto il positivo, lì è piatto, non esce in fuori, invece qua deve avere il positivo in fuori a bottone, capito? Sì, ho capito. No, già è carino, quello che c'ha tutto, preso l'antenna, cuffie. L'unica cosa, il mio ad esempio c'ha un difetto, che cada notte alle 2 al mattino lo accendeva da sola, quindi adesso per non rischiare ne ho staccato la batteria. Vabbè, oramai è orario, quindi vi saluto di nuovo. Ciao Marco e ciao Antonio. Riprendi Antonio. Gappa, ciao, ce la risentiamo. Alle prossime ce la risentiamo, ok? Ma ti arrivo bene? Funziona bene questa radio? Non ti ho chiesto ancora niente. Il segnale è fortissimo, 920. La radio va bene, tranquilla. E K, questo è un intec 790 Flux. Va bene, dai. Sì, Antonio. Ciao Gianfranco, sentiamo. Ho visto il Degen, ma non mi tornano i conti. Io devo aver visto un'altra ulteriore radio di quel tipo. Questo ce l'ha il display a cristalli liquidi, e in più però ha anche la scala graduata lì, o parlante, o come si chiama. Quindi è un ulteriore modello, quello che ho visto, con la sola scala graduata, ma senza cristalli liquidi. Indagherò, vediamo cosa era. Forse un altro modello, Ah, questo sono contento, va bene. Non sarà di radio chissà cosa, però va bene. 790 Flux, M790 Flux. E a cavaldonato non si guarda in bocca, ma sì, è una modulazione un po' nasina, però è capibile, cosa vuoi di più? È nuovo pure, no? Mi ha detto che mi ha mandato la foto, se quello è praticamente nuovo. Kappa, ma sempre innesca quando accendi l'SP, però la modulazione è migliore o peggiore? Oddio, il fischio lo sento, ma non è che migliori più di... No, direi di no, almeno qua. Mi dovresti fare due passaggi, uno dopo l'altro, allora fa lo staccato e fa l'attaccato. Io ascolto solo. Allora, guarda a vedere così com'è, guarda a vedere così com'è, com'è cambia? Qua io mi sono avvicinato all'orecchio altoparlante e non noto considerevoli aumenti, non hai praticamente nessun pregio, ma forse una cosa infinitesimale, però con le pause nel parlato compare questo lo so, però a me mi migliora la ricezione, migliora, ma infatti non lo inserisco che è meglio, lo faccio così normale. Però guardate il manuale delle istruzioni, perché? Ti spiego perché. Per esempio Gianni ha un bel portatile che ha una funzione simile, però il tasto ha tre funzioni, cioè se lo premi una volta agisce in trasmissione, per esempio, se lo premi la seconda volta agisce in ricezione, se lo premi la terza volta agisce in ricezione e in trasmissione, praticamente ti fa da compressore e decompressore della modulazione, capito? Cioè ti migliora non solo, può migliorare o la trasmissione o la ricezione o entrambe. Se poi lo premi un'altra volta te lo disabilita, capito? Lì bisogna vedere quante funzioni ha il tasto. No, oh, c'ha due funzioni solo, te lo dico già. Ehi, ma è ricezione, fa qualcosa, tipo mi aumenta la radio oppure non cambia nulla? Aumenta, si misureggia, no, aumenta di più, non è neanche il segnale, aumenta di più la voce, la radio, ma niente di che. O lo metti o lo togli, così funziona qua. Ehi, Antonio, tu sei attaccato adesso, stavo notando il segnale, dovresti farmi una prova da liscio, anzi ti attenuo pure, vediamo se migliora con questo DD, come si chiama, DSP, ESP? Ehi, guarda a vedere. Allora, così com'è, alzo il volume anche, parla. 1, 2, 3, prova, senza niente. No, adesso c'è il fischio, è attaccato. No, il coso è spento, però la modulazione com'è? Sì, vabbè, ho alzato il volume anche, e comunque il fischio lo sento, io sento il fischio adesso. E allora cosa c'è, qualcosa che non quadra lì? Boh. Adesso non lo senti più. Ah, adesso l'hai tolto, io modula. 1, 2, 3, prova, adesso sono normale. Forse appena l'aumenta, appena probabilmente, ma ti ho dovuto attenuare pure mi, perché già tu sei inchiodato qua forte, magari un po' satura il ricevitore mio, capito? Invece Gianni, come l'hai inserito l'altro giorno in quel portatile Intec, ha migliorato abbastanza la modulazione, si notava di più la modulazione più espansa, capito? E adesso domani devo mettere a posto e mi metto la cinghia di sigari bene, tutte cose, e lo metto. Tanto la luce si è abbassata, la mano si è mala. Ehi, così abbassamenti di tensione, sai. E ogni tanto anche qua, cioè, più che altro perché abbassamenti qua o manca o c'è la luce. Forse stanno facendo lavori con queste piogge qua, in questo periodo. Aspetta che... Le 9 di sera. Io comincio fossero le 8:15. Cazzo, le 9. Questa è ora del film, amico. Oggi serata fatta, sono due bei film. Uno è Gran Torino con Clint Eastwood. E poi più tardi a seguire c'è Elizabeth, The Golden Age, con l'attrice Bonassa, Eterea, come si chiama? Kate Blanchett. E cosa vuoi vedere? Porcherie? No, è un film sulla regina d'Inghilterra, capito? La regina Elisabetta nel 1500 circa, dai. È Fruscia, adesso non mi ricordo la data esatta. E quello è un bel film, quello è un bel film. Ma anche Gran Torino è bello, Gran Torino, con Clint Eastwood. Interessante. La serata è fatta, mia tu. Due bei film e poi si vedrà. Gatta. Sì. Anche da cosa stava arrivando forte poco fa, Ma un po' da tutte le parti, dai. E l'antenna sul tetto è una gran cosa, Per esempio, purtroppo Nicola non l'ha potuta mettere, non l'ho sentito da un bel po', Nicola Lupo Grigio. Lui ha provato anche la boomerang sul terrazzino, ma era talmente chiuso dai palazzi che lo sentivano basso lo stesso. La boomerang lunga, lo sentivano basso lo stesso, proprio era circondato dai palazzi, capito? Non usciva segnale. Sul tetto già sarebbe un abisso, però sai, il condominio è... sempre una rottura di scatole, provi sempre che rompiglioni di turno, anche P2, eh. Perché non gliela fanno mettere? No, se vuole la mette, se vuole li può anche obbligare a fargliela mettere. Il problema è che dice che ci sono altri problemi e vuol fare calmare le acque, problemi inerenti al condominio, e quindi non vuole gettare benzina sul fuoco, vuol fare calmare un po' le acque quando, se e quando si potrà, la piacerà, sempre che entri ancora, perché io non lo sento da mese e mezzo, un mese dai. Capo, bisogna che ti rompi i balli, bisogna. Oggi, bisogna salire su e piatto. Oh, quando io non ho problemi. Grazie a Dio, quando la chiesa a casa, la riubiliata, vabbè, ti ha messo un cernaio, aiuto. Ora che cosa, io, sto piazzato. Prima ho cominciato con il rocicoporo, poi ho cominciato con la bumera, adesso con la rinco. Con due rinco. E questa finché funziona la lascio stare, perché la più che va bene. Sì, bene Antonio, io vado e mi accendo la TV. Mi devo pigliare il caffè, adesso è tardi, però se lo faccio adesso, a quando a scaldare la macchina e a fare il caffè, comincia a diventare veramente tardi. Vabbè che poi io per dormire piglio roba, quindi è tutto compensato, dai. Ci sentiamo, buona serata, buon tutto, buona cena se la devi fare, ma secondo me hai già mangiato. Ok, ciao Anto, buona serata, buon tutto, alla prossima. Ciao Marco, buon tutto anche a te, dai, ce la risentiamo, ciao.